Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey e Olga. Ben ritrovati a tutte e tutti con Van Loon, il programma di storia del sabato pomeriggio che torna questa settimana con la nostra ormai celebre rubrica You Say You Wanna Revolution, la speciale rubrica per l'appunto che abbiamo dedicato in questo 2017 di anniversario delle rivoluzioni e perché no, di 2017 anche della rivoluzione. Allora, entriamo nel mese caldo dell'anno, ovvero sia il mese, questo ottobre, novembre, a seconda del calendario giuliano gregoriano che si segua, in cui si ricorre il centesimo anniversario della rivoluzione d'ottobre, la cosiddetta madre di tutte le rivoluzioni. In questa puntata cercheremo di fare un po' il punto della situazione sulle uscite della stampa, quindi le uscite che ci sono state nell'arco dell'anno a proposito del 1917, anno della rivoluzione in Russia, ricordiamo. Allora, le uscite sono state veramente tanto e cercheremo un attimo di darne conto. Per orientarci diciamo subito due cose. Possiamo ricavare due linee interpretative, tutto sommato, da questa grande rassegna stampa che vi andremo a presentare. C'è chi salva e chi condanna la rivoluzione. Abbiamo delle perle nere, cioè qualcuno che critica aspramente la rivoluzione e qualcuno che la salva in maniera totale. Noi cerchiamo di andare a ragionare, di ricostruire in maniera storica le cose e di contestualizzare le varie questioni che sono emerse. Le due linee interpretative quali sono? Da una parte, per l'appunto, c'è chi salva la rivoluzione cercando di considerarla come un elemento storico che ha prodotto altri cambiamenti dal punto di vista storico, sociale e politico, per l'appunto, con tutta la grande stagione di riforme, di mobilitazioni e di emancipazione delle classi lavoratrici, del cosiddetto, quello che veniva definito il terzo mondo, e anche magari emancipazione femminile. Dall'altra invece c'è una linea di forte critica che condanna la rivoluzione d'ottobre come madre del terrore, come madre di totalitarismi, e in particolare poi va anche a mettere in luce il contributo negativo in questo senso dato dallo stesso Lenin, che normalmente veniva salvato rispetto alla figura di Stalin. Ma Jacopo, partiamo subito perché la carne al fuoco è moltissima. E partiamo da due uscite che sono state regolari e speciali e sono uscite in edicola in tutto l'arco del 2017. Manifesto e Repubblica, diciamo che parallelamente hanno dato ai propri lettori e alle proprie lettrici degli interessanti appuntamenti mensili scanditi in questo anno. La rivoluzione di febbraio, per esempio, il ritorno di Lenin sul vagone piombato che tanto ha fatto discutere, o il tentativo insurrezionale di luglio, e infine si approda ad ottobre. Il taglio dei due speciali è diverso. Il manifesto sceglie di imboccare la strada di un reportage, inscenando il viaggio di un corrispondente, di un fittizio corrispondente vicino al Partito Socialdemocratico, ma affascinato dai bolscevichi, che ci racconta man mano quello che sta accadendo e le reazioni sia della popolazione sia dei dirigenti politici. Una specie di fiction non fiction fa il manifesto, a metà tra la storia e la politica, il giornalismo, immagino. Esatto, sì, è stato un qualcosa di molto, molto carino da leggere, cioè un bel inserto che ha ricostruito in maniera simpatica, diciamo, anche questo anno, questi anni, questo anniversario. La Repubblica invece fa una cosa un po' più tradizionale, ricostruisce la cronaca di quell'anno affidandosi ad un reportage dell'ex direttore Ezio Mauro, che conosce piuttosto bene la Russia perché lui era stato corrispondente da Mosca per 3 anni durante la perestroika. Sono articoli tradizionali che ci raccontano quello che è successo. Esatto, esatto, sì, anche se naturalmente in questo peccano un po', strizzano un po' l'occhio ad alcune cose come le scene in cui venne raccontato lo zar in questa dacia lontana nella steppa in cui è stato imprigionato, però sono molto carine. Diciamo subito che hanno il vantaggio di essere reperibili ancora su internet, mentre gli articoli del manifesto, lo speciale del manifesto invece non è disponibile in rete. Chiudiamo questa prima parte segnalandovi un'uscita che magari già conoscete. Il 25 ottobre, giovedì, è uscito il primo internazionale extra, numero 1, dedicato alla rivoluzione russa, che abbiamo deciso di collocare in questa prima parte di rassegna stampa perché sul modello, sulla falsariga di quello che è l'internazionale settimanale, viene costruito uno speciale in cui vengono raccolti tutti gli articoli, molti articoli della stampa di allora, tanto russa quanto occidentale. Vediamo delle firme importanti, c'è Trotsky, c'è Martov, c'è John Reed, ci sono corrispondenti delle Figaro, del Times, delle Tomps, che raccontano per l'appunto mano a mano la rivoluzione, seguendo la struttura dell'internazionale per l'appunto. Ora ci ascoltiamo una canzone, siamo assolutamente in tema con gli Arcade Fire, Lenin. Torniamo in studio con Balloon, il vostro programma di storia del sabato pomeriggio. Stiamo parlando nella speciale rubrica You Say You Want a Revolution, appunto della rivoluzione russa, di come in quest'anno tutto l'anno 2017, nel quale ricorre il centenario, la stampa italiana, quindi i giornali in edicola, hanno parlato bene o male, o non lo so, scegliete voi, della rivoluzione russa. Ritorniamo in studio con il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera è spesso tornato sulla questione della rivoluzione nell'arco di tutto l'anno. La fondazione Corriere della Sera, in particolare, ha dedicato una serie di conferenze alla tematica della rivoluzione russa. Di un certo interesse c'è un libro, è uscito in questo mese e che possiamo ancora trovare in edicola. Si chiama Ottobre Rosso, la rivoluzione russa, i fatti, i protagonisti, il mito, a cura di Antonio Carioti, che passa in rassegna una bella serie di contributi di storici, anche russi, tra i quali segnaliamo il saggio di Fabrizio Dragosei, Un secolo lungo, Putin e il centenario del 1917, e un altro che è Il fucile e la penna, gli scrittori nella rivoluzione di Luigi Magarotto. Invece, passando al quotidiano di carta, La lettura, che è l'inserto domenicale del Corriere, ha pubblicato una serie di conversazioni sulla rivoluzione. Quella di cui vogliamo parlarvi, citando qualche passaggio, è quella in cui si fronteggiano in un dialogo Sergio Romano, che fa parte, diciamo, dell'accusa, quindi lui accusa la rivoluzione, e lo storico Luciano Canfora, che la difende. Esatto, allora andiamo quindi a prendere un estratto dalla lettura Processo a Lenin, Putin assolto, del pubblicato sulla lettura del 29 gennaio 2017. Parte la prima domanda. Ma come giudicare oggi l'opera di Lenin? Risponde per primo Sergio Romano. È indiscutibile l'importanza del fattore Lenin nella vicenda rivoluzionaria. Tutto cambia quando lui scende dal treno alla stazione Finlandia di Pietrogrado. Lenin dimostra grande abilità durante la rivoluzione, nel prendere il potere e nel mantenerlo, nel corso della guerra civile, ma va giudicato anche per il dopo, per la costruzione del nuovo Stato. Quali sono i suoi meriti? A mio avviso sono inferiori a quelli di Stalin, vero creatore dell'Unione Sovietica. Riprende poi la palla Canfora nelle vesti della difesa, per l'appunto. Vorrei tornare sul ruolo della personalità nella storia. I grandi eventi sono legati alle condizioni oggettive, ma anche alle capacità dei protagonisti. Secondo me è utile il paragone con la rivoluzione francese, che si svolse a tappe come quella russa, e qui dopo Canfora svolge una bella riflessione su come su un confronto fra Lenin e Robespierre. Questo lo troverete in diversi articoli, il parallelo con la rivoluzione russa. Riprende Sergio Romano. La rivoluzione russa segna uno spartiacque ideologico che divide la sinistra e la rende molto più debole di quanto avrebbe potuto essere. Luciano Canfora precisa, la prima rottura avviene però nel 1914, quando la SPD tedesca vota i crediti di guerra, quindi sceglie la patria e non l'internazionale socialista, che di conseguenza va in pezzi. Ciò induce Lenin a credere che la socialdemocrazia sia perdente e la rivoluzione abbia la strada aperta. Ma quando si vota in Germania, a guerra finita, la SPD risulta di gran lunga il partito più forte. Un risultato che induce il leader bolscevico ad accentuare la polemica verso le aristocrazie operaie, a suo dire corrotte dalle provvidenze concesse dallo Stato borghese. La successiva campagna staliniana contro il socialfascismo si riallaccia a questa idea per cui la socialdemocrazia è nemica della rivoluzione. Ora, sarebbe bello approfondire questa lettura e vi invitiamo ad andarla a recuperare, perché su internet si trova. È molto interessante, oltre a questo primo punto che viene segnalato della crisi della socialdemocrazia che viene attribuita alla rivoluzione bolscevica, è molto interessante anche il proseguo che viene fatto di questo discorso, quando viene tirato in ballo da Antonio Carioti, che conduce questa intervista, il ruolo che gioca l'immagine di Lenin nella società russa contemporanea e di quanto, partendo proprio dal fatto che il mausoleo di Lenin è sempre sulla Piazza Rossa, e quindi si chieda, ma allora non è cambiato nulla? In realtà Canfora mette in fila due discorsi e risponde anche a questo punto. Sulla linea di queste riflessioni ci colleghiamo a un altro grande quotidiano, cioè grande per importanza storica come quotidiano, L'Avvenire, il quotidiano cattolico, che anche lui ha dedicato qualche uscita alla rivoluzione russa. Noi vi suggeriamo un'intervista che è stata fatta da Michele Roncalli al sacerdote slavista Vladimir Zelinsky, che ci perdoni se abbiamo pronunciato male il suo nome, sulle celebrazioni a Mosca del centenario. L'intervista è reperibile su internet ed è uscita sull'Avvenire del 17 settembre 2017. Intervista che si apre con: Mosca ha perso l'opportunità di fare il suo processo di Norimberga. Oggi putiniani ed antiputiniani concordano solo su una cosa: il 1917 fu una catastrofe. Sì, Michele Roncalli chiede, tra le ottime e interessanti domande che fa al sacerdote, ve ne proponiamo una in particolare. Lui chiede: il centenario va commemorato, sì, ma non celebrato e né festeggiato. Va capito per tirare le somme e trarne insegnamenti. Questo lo dicono alcuni intellettuali russi. Lei quali somme tira e quali insegnamenti trae? Esiste la Russia putiniana e teledipendente, quella della maggioranza, e la Russia antiputiniana della minoranza. Le due non sono d'accordo in nulla: Ucraina, Crimea, Occidente, corruzione, tranne in una parola: catastrofe. Così indicano la rivoluzione del 17, per motivi vari però. La distruzione dell'impero unito e potente nel primo caso, la nascita del mostro cannibalistico basato sull'odio nel secondo. Un disastro quasi per tutti tranne gli ultimi comunisti, con un elettorato sotto il 20%. Dal mio punto di vista, continua il sacerdote, la rivoluzione ha generato il regime ideologico, che è molto di più che la semplice dittatura. La popolazione ha vissuto non solo sotto il pugno di ferro, ma sotto il potere assoluto delle dottrine, delle promesse, delle parole che hanno sostituito la realtà. E chiude: la fede nel futuro felice però non può vivere sempre quando il futuro piano piano diventa il presente, non tanto felice. Secondo me, la morte del regime durante la perestroica era inevitabile, quasi nel senso biologico. Le idee diventano idoli e prima o poi muoiono. L'interessante intervista a questo sacerdote slavofilo di cui non siamo in grado di riprodurre il nome, che di cui abbiamo Olga ci ha letto un estratto, la trovate su internet e per l'appunto sempre dall'Avvenire. Vi segnaliamo anche un altro bel articolo che è uscito, questo invece il 18 aprile del 2017, sempre anche questo è reperibile in rete, che si intitola 1917, la rivoluzione dei testimoni oculari, di Riccardo Michelucci, che fa una bella recensione al libro di Helen Rapport, Caught in the Revolution, presi nella rivoluzione, che è costruito sulle testimonianze degli occidentali a Pietrogrado nel 1917. Vi suggeriamo inoltre di recuperare il numero di ottobre di Le Monde Diplomatique, che presenta un bel dossier dal titolo Rileggere la rivoluzione russa. In questo dossier molto, molto ricco vi raccomandiamo in particolare la lettura di un articolo di Hélène Richard, che si intitola Quando la rivoluzione dubita, in cui si presentano varie voci e varie riflessioni sulla costruzione del regime bolscevico e della politica centralizzatrice e autoritaria del terrore durante la guerra civile. Molto più documentato, pensiamo noi, e strutturato di tanti altri articoli. In questo caso, anche purtroppo non c'è tempo di leggere tutto, ma vi proponiamo la lettura dell'editoriale di Serge Halimi, che si chiama Il secolo di Lenin, che potete trovare online ancora sul sito di Rifondazione. E questo fatto rimane: malgrado i suoi fallimenti, anche nelle sue forme più perverse, il sistema sociale che ha governato un terzo del pianeta, il movimento politico più importante del secolo trascorso, ha significato pressoché ovunque l'abolizione della proprietà capitalistica, lo sviluppo dell'istruzione, la sanità gratuita, l'emancipazione delle donne, il sostegno diplomatico, militare, finanziario e tecnico alla maggior parte delle lotte anticoloniali agli stati indipendenti da esse creati. Senza dimenticare un'inedita impresa di promozione politica delle classi popolari, che ha proiettato operai e contadini in posizioni di potere fino ad allora riservate solo ai rappresentanti della borghesia. Ecco, siamo arrivati per l'appunto a quell'altra interpretazione della rivoluzione, cioè un'interpretazione della rivoluzione d'ottobre che si proietta in una dimensione storica, per l'appunto. Su questa stessa linea, purtroppo non facciamo in tempo a leggerlo, vi segnaliamo anche l'articolo di Samir Amin, che di presentazione al libro edito da Marx 21, ottobre 17, ieri e domani. Anche qui viene rivendicato da Samir Amin una pena che spesso è comparsa anche sul Manifesto e su Le Monde Diplomatique, il valore della rivoluzione e in fondo anche dell'idea stessa di rivoluzione, in una platea generale che critica invece l'idea di rottura. Ci ascoltiamo una canzone CCCP Manifesto. Comunismo, anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano, anche se è un dato di fatto che a Stalingrado non passano. Lunga vita al presidente, lunga vita al presidente. Eccoci di nuovo con Vallun, siamo alle battute finali di questa rassegna stampa sulla rivoluzione d'ottobre, cioè tutto quello che è uscito sulla stampa in questo 2017, di centenario del 1917. Facciamo un'ultima segnalazione su una cosa che non ci è piaciuta tantissimo. Naturalmente potremmo citare l'articolo del Foglio dedicato alla rivoluzione d'ottobre, che vi invitiamo a scoprire, ma non vi daremo indicazioni. Purtroppo siamo rimasti un po' scottati dalla puntata che hanno dedicato alla rivoluzione d'ottobre, Tutta l'umanità ne parla, il programma di Radio 3, che nel fine settimana ricalca il famoso format Tutta la città ne parla, a cura di Piero Del Soldà e Edoardo Camurri. Non ci è piaciuta molto perché questa puntata, costruita come per l'appunto dei collegamenti con alcune personalità, Simone Weil, Lenin, Mao Zedong e Che Guevara, che parlavano, facevano le loro considerazioni sulla rivoluzione d'ottobre partendo dalle parole che hanno detto effettivamente, è finita per essere un po' una caricatura piuttosto che un vero approfondimento, come normalmente fanno i programmi di Radio 3. Passiamo però adesso, siamo proprio alla chiusura, agli appuntamenti che vi suggeriamo. Sì, allora, oggi pomeriggio presso l'Istituto Aldini Valeriani viene inaugurato il murales dedicato a Antonio Gramsci per l'80° della morte. Il progetto è della Fondazione Gramsci, che oltre ad essere un archivio e una biblioteca si fa promotore di iniziative e progetti come questo per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto alla storia e alla cultura. Poi vi segnaliamo il 3 novembre al VAG 61, 17, Russa o non russa e la rivoluzione, mostra, cena e filmati, musica e parole sul 17. Ieri, infine, è cominciata la decima edizione di Archivio Aperto. Il programma è molto lungo, potete trovarlo su onmovies.it. E direi che è tutto, Frey, per... No, abbiamo un altro appuntamento bolognese, cioè dal 1 al 18 novembre 2017, presso la Cattedrale di San Pietro a Bologna, c'è una mostra dedicata a Joseph Meyer-Nusser, scusate la pronuncia, sicuramente sbagliata, che è stato un altoatesino mandato nei campi di concentramento nazisti perché rifiutò di arruolarsi nella Wehrmacht, rifiutò di giurare fedeltà al nazismo, per l'appunto. Personaggio molto interessante. È in corso la sua causa di beatificazione, per questa volta un personaggio sicuramente valido. Vi suggeriamo di andare a vedere questa mostra dall'1 al 18 novembre alla Cattedrale di San Pietro a Bologna. Adesso questo è veramente tutto da Frey e Olga. Un buon proseguimento di giornata e appuntamento la settimana prossima sempre con Vallun. Sempre con noi. Ciao. Ciao. In the USSR.